Allora, se tu sei l'album, perché su Ballen è una macchina antica, se vai a foto, poi mi sono stato il sabato sera a presentarlo su Ballen, su le cose delle lantine, e su un origine di San Giorgio, sarebbe su mare, poi Bara, cos'è questo? Non è fatto del Tinoso, questa cipria, questa sicuramente si chiama qualche cosa importante, c'è Modrina poi bellissimo, un origine di San Giorgio, bellissimo, tatuoso, con una matita e giù per la gomma, le cancellate sopra. Ok, se no per fare che vedremo giù, sicuramente. Allora, ok, perfetto. Quindi, serie 1, parte 1, Gris, poi Summer Nights, How Place Devo To You, The Ultra One That She Want, Cindy, Beach Call Dropout, eccetera, eccetera. Bellissimo, adesso eseguito il sacco, perché ne appara? Un impresa di guida, no? Bella così impresa di album, che sa bene, che bisogna questa cenera di ferro in centro, questo foglio bucato, insomma. Per questo punto la matita, sempre con fingioso questa cancellina, proprio sotto per scritto. Benvenuta alla Rider, alla High Rider. C'è una ragazza Gaius, so, High Rider, e beh, tutto quanto il gruppo è Gris, questo è Gris, poi subito, si vede, cioè, sono fotografato in un palazzo bassissimo, di questo è stato palazzo in via della Bastia, e sono tutto quattro, tra cui da John Lennon, questo è subito dagli 67 a 70, poi a Berisi, e vado in Ferriara, in questa Ferriara, beh, tutto il servente che aveva subito, questo è un'infreddata che sicuramente è sempre via dalla Bastia, e poi salta la capoderina, prima c'è preso un Beatles, la facciata del soppoggiolo di via dalla Bastia. Oh, desperato bisogna, in questo momento con suo fucile, suo Beatles, e adesso con bisogna, tutto ciò che è una morte del suo West, tutto non morto, tutto ciò legato, sono catturato, so, e io sono fotografato. Invece il Birutte, che è il suo film, è catturato, adesso è cubato una femmina, questa con una mossa blu, una bellissima anca, tanto la gente già qui due, né? E c'è accanto nessuno, Come Together, Summertime, Maxwell Silverhammer, Hoderling, Cactus Garden, Want You, poi beh, Here Comes the Sun, Because, You Never Gave Me, Your Money, Sun King, Minimal Master Matter, Written Pen, She Came In Fog, The Bathroom Windows, Gold Slumbers, Curve The Street and La Fine, no? Questo termine è Octus Garden, funeso un mese. E Mara, il sapoderina, il sobbato qua traversa, ma non sa dove non è, bisogna tutta la macchina antica a lungo la via, c'è sempre il suo lampione, e per me c'è su l'edificio di via della Bastia. In questo fatto per John Lennon, se sei qualche male sono preso il cuzzo, so. Ho bisogno di battere le pile, ho finito da Jannos, ma mamma, bravo, bravo, bravo. Bello sono, bello so, bello so, guarda, sono in oso, buono, lo topato. Questo è il suo debito, non so se mi è arrivato, non mi ha detto come l'hai fatto, parecchio, sa, sul disco, sul disco parecchio. Allora, vedi lui, dove vuoi che parla, nel specifico di strana. Allora, per me era il centro dei Beatles, poi vado una sigla, ragazzi, che non vedo se la idere. Che si legge solo Milano, allora. Numero, vado, numero, che è il titolo originale, è tutto giusto. Ma bello, oh, prodotto da George Martin, no, ragazzi, non credo che sia, no, sai come si mette, no, bianco, bisogna, sono territorio, no, anche sull'alto, divertimento, per soffiare ancora per loro, no, non so. Si interessa, sai che sono proprio molto denaro che l'hanno preso, solo quando va che sono per mandare un altro check, che è pur bassa, no, ma non va a entrare per là, bellissimo. Ho preso, non lo so. Non lo sarà accaduto in luogo, bellissimo. E come ti faccio fare un'altra cosa, ti faccio fare un park, tu vuoi dare file? Cali the way, check a check the India, I can't hear me ma, you knock to bottom, on the track to our wall, magical way, far in the way. Scusa, questo è perché danno. Perché dopo la fire, non fare del tubo finché è andato, una cagata, se lo siamo a parte, però è bellissimo. Poi invece, Shatter, normalmente come viene da conca, però dopo la fire è super bello tutto, perché sono 45 giri praticamente, io ho 40 km, me lo devo raccomporare. Flex, 40 km è una bomba, siamo a parte, dopo la fire. Sì, sì, no, no, qui lo compro, massimo si dice come tappuzza.com, aiuto, beh. E, ma questo audio è particolare, no? Sono bellissimo, però non è su stretch. Su dopo volevo dare a cacciare, vedevo cosa con le sue scelte, insomma, ma già me lo atto però si è andato due. Scusa, mi ha fatto la scelta mia che l'incascio. E vabbè, ma non li fa che nulla, no, trovo un'altra cosa, sono più dedicata a comprare. Certo sono un uso più aggressivo, io bio. Più pulito è, più tondo. Ma no, no, già ho saporato tutto, questa cazzo non lo sono, questa già. Non dico voi, ragazzi, ma va, però un altro giorno bello la Zayana, la Iana Buru, sa sorto fon, però questa non troppo, ragazzi. Ma problema no, però guarda, adesso come la pallineata suona bene, poi la forza c'è su stilo del 91, no, che l'applicazione è stata in 2016 e to cazzo in cosa che era tappanato, che bellissimo ci sono. Vabbè, ma sempre così, io l'ico con la sapintesa e a tua volta non ho una balla, no, è finito ragazzo, no, non dico, questa radio tecnica da 3.600 e allora quella già paragonata a prezzo di testina buona a me, e cazzo, questa borsa già in barba, di avuto in testina di 200 euro a me. ma è dentro di te, di giù. Io sento un vento, che senza di cui, come se la mia amica ti pone a fare che streccia ti occupo, e mi faccia tutto e mi calbe la cantubara. No, si che una volta con il disco lo fa che si entrare, però lo che si intende sul disco, che si intende, non che si intende un praticamente, no? Credo che mi la fece il dico pure, no? Io come lo sanno, non mi ho parlato sul liquido, ma ho fatto, ho preparato sul liquido, come state venendo su panno, con pesce, bello, se mi rapporto. Presa, io sono il micidiale. No, ma se mi atto su l'uccello che vuoi scusare, ti dico mica che quando si avvicina a mia, i cuore può mica passare. Eita, cazzo, fammi la ruina. No, non c'è nulla quello che ci piace, la velocità di giusta, dopo quando tutto perfetto, di sketching e bilanciamento, quanto si adatta, compreso. No, io lo vedo io pompende la grande. Peccato che non ha risolto la valvolare, se no non è mica dato. Attento. Se muoio bene in generale, io mi supporto pure fissare per il supporto finale. Ti ricevo. Fammi un passaggio che controllo lo smitter un secondo solo. Guarda, questo adesso è 10 millibar. Catara, hai dei picchi di Santiago di 5 e radio di 4, Pierpaolo. E va troppo bene. Guarda adesso con la stella ancora più piccola, guarda bene. Santiago 2 e radio 2, dai. Guarda, adesso sono 4 watt. Santiago 5